Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, di Federico Pedrocchi e Simona Regina. È sabato, c'è Mebius, ciao Simona. Ciao Federico e buonasera a tutti. Pronta? E tutte. Prontissima. Allora. Andremo ai confini dell'impero, quello romano. E poi andremo in bicicletta, perché ci è arrivata una domanda molto strana, molto pazza, da un nostro ascoltatore sul biciclettare. E poi cercheremo di capire come funziona il nostro olfatto e lo faremo con la premio Nobel Linda Bach. Mi faccio ibernare oppure congelare? Oppure mi faccio congelare e poi ibernare? Che idea bizzarra e che confusione! Esatto, cominciamo. Federico, adesso andiamo ai confini dell'impero romano. Era finito però, mi sembrava. Invece no, ci sono ancora le sue tracce. E infatti noi andiamo a 750 km a sud del Cairo, 300 a ovest di Luxor e a 50 km dal primo centro abitato. Praticamente andiamo in pieno deserto, in un ambiente remoto e duro, perché lì lavora Corinna Rossi. Lì si trova il sito meglio preservato tra quelli situati all'interno dell'oasi di Cairo, in pieno deserto, che si chiama al-Dabadib. E allora buonasera, benvenuta Corinna Rossi, professoressa di egittologia al Politecnico di Milano. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuta. Perché ci spingiamo così proprio ai confini dell'impero romano? Lei sta portando avanti un progetto grazie ad un finanziamento della comunità europea, lei ha vinto un grant, un ERC di 2 milioni di euro per studiare proprio com'erano gli insediamenti archeologici tardo-romani ai confini proprio dell'impero. Ecco, perché, per fare cosa? Ma perché lì c'era un confine, cioè è da considerare uno dei punti di confine dell'impero? Assolutamente sì. Nel IV secolo d.C., attraverso l'oasi di Carga, passava, per così dire, il confine meridionale dell'impero romano. L'oasi di Carga ospita i resti di diversi insediamenti fortificati che risalgono a quel periodo, ma il più particolare di tutti è proprio Umm al-Dabadib, il cui nome non dirà molto agli ascoltatori, perché in effetti è un sito completamente sconosciuto, benché sia un sito assolutamente enorme e perfettamente conservato. Il motivo di questo stato di perfetta conservazione è il suo isolamento, in quanto sorge, appunto, come dicevamo, a una cinquantina di chilometri dalle zone attualmente abitate nell'oasi di Carga, a una distanza che ha permesso la perfetta conservazione sia dei resti archeologici e architettonici, sia, e questo è davvero particolare, dei resti dell'antico sistema agricolo che sostentava la comunità. Questi sono come due facce della stessa medaglia, diciamo, l'uno non poteva esistere senza l'altra. E in effetti questo, soprattutto in una zona poi desertica come questa, e questo riflette proprio anche il binomio presente nel mio progetto, in quanto il nostro team interdisciplinare è diviso tra un'unità archeologica e architettonica basata al Politecnico di Milano e un'unità ambientale basata al Federico II di Napoli. Se fossimo lì, che cos'è che vedremmo? Innanzitutto un luogo stupendo, questo va detto. E dal punto di vista archeologico siamo in presenza di, appunto, un insediamento tardo romano del IV secolo che nei fatti si traduce in un fortino alto circa 15 metri con due torri che guardano verso sud. In cima ad una di queste all'interno c'è la scala che si può ancora percorrere, c'è una finestra da cui si dominava tutta la piana sud che guardava quindi verso le terre non conquistate dai romani. E questo fortino alto circa, dicevo, 15 metri, circondato da un insediamento fortificato molto compatto che emerge dalla sabbia, e ai lati ci sono tre grandi coltivazioni, e la cosa veramente impressionante è che queste coltivazioni sono completamente invisibili a livello terra durante il giorno. Quando poi il sole tramonta, per pochissimi minuti, quando i raggi sono radenti, spunta fuori dal terreno tutta la centuriazione romana, ovvero tutta la divisione in campi delle antiche coltivazioni. Tra l'altro ci sono anche ancora preservati gli acquedotti. Assolutamente, queste tre grandi coltivazioni erano irrigate grazie a 7 acquedotti sotterranei, ognuno lungo tra i 2 e i 3 chilometri, scavati nella scarpata retrostante. Senta, queste... Corinna Rossi, visto che adesso ci ha catapultato, insomma, qui in pieno deserto, ci ha fatto immaginare di essere lì, ecco, ma perché, ci faccia capire meglio perché i romani fondarono lì un insediamento? È corretto dire che lo fondarono per controllare queste vie percorse da varie carovane, insomma era strategico essere lì per capire che cosa succedeva, che tipo di traffici percorrevano il deserto? Assolutamente, Umm al-Dabadib ci fornisce informazioni sulla strategia sia locale che più globale dei romani nel IV secolo e tutta la catena di oasi del deserto occidentale egiziano funzionava come una specie di enorme bypass rispetto alla valle del Nilo, quindi invece di viaggiare in direzione nord-sud lungo il Nilo o la valle era possibile avventurarsi nel deserto, passare da oasi a oasi e quindi superare, diciamo raggiungere il nord, le coste del Mediterraneo senza passare i controlli, diciamo così, lungo il Nilo. Quindi i romani avevano ben presente il potenziale strategico di controllare le oasi e quindi in ogni oasi fondarono un forte legionario alla fine del III secolo, ma l'oasi di Karga è più particolare perché lì si incontravano due grandi vie carovaniere, una che andava correva in direzione nord-sud e una est-ovest e quindi a Karga era particolarmente importante sorvegliare queste vie carovaniere che entravano e uscivano dall'oasi. Umm al-Dabadib infatti sorge lungo la via carovaniera che va verso ovest in una posizione defilata rispetto al centro delle attività dell'oasi anche in epoca romana, non solo in epoca moderna. Quindi lo scopo di Umm al-Dabadib era di controllare, io mi spingerei addirittura a dire colonizzare, tra virgolette, quel pezzetto di deserto in maniera da tenere sotto controllo chi passava da quelle parti. Ecco, ma vuol dire che lì c'era una guarnigione militare, non fatta di tre persone, nel senso che per controllare bisogna anche contrastare, si arrivavano 100 persone, 200 persone con cammelli che bisognava riuscire a fermarli, quindi era un forte ben presidiato, immagino. La mia impressione è che questo forte facesse parte di un sistema di fortini che erano in stretta comunicazione l'uno con l'altro. Sicuramente c'era un contingente militare che doveva essere pronto a scattare, ad avvertire il resto delle truppe dislocate del resto dell'oasi, ma credo che un indizio molto interessante sia quello che abbiamo trovato due anni fa quando siamo riusciti a entrare in due stanze mai aperte, mai esplorate prima nei sotterranei del fortino, e fortino che ha un aspetto effettivamente aggressivo, militaresco, in realtà l'abbiamo trovato pieno di riserve di cibo. E questo è molto interessante perché un sito così isolato in realtà il vero tesoro non erano montagne di pietre preziose oppure armi, ma erano cibo e acqua. Corinna Rossi, senta, quindi Politecnico di Milano e l'Università Federico II di Napoli insieme stanno collaborando a questo progetto, gli scavi partiranno in inverno, avete già fatto i rilievi di superficie, senta, ma ci conferma questa cosa, l'intenzione è anche quella di creare un parco naturale intorno a questo sito così ben conservato? Assolutamente sì, le autorità egiziane da tempo hanno nel mirino, diciamo così, la zona di Umm al-Dabadib perché non solo contiene questo sito archeologico incredibilmente ben conservato, ma sorgendo in quest'area così isolata e veramente ben conservata da un punto di vista naturalistico, e addirittura nella zona c'è uno degli ultimi branchi di gazzelle che vivono liberi e si abbeverano in una pozza d'acqua lì vicino, l'intenzione delle autorità egiziane sia del Ministero dell'Ambiente che del Ministero dell'Antichità è di proteggere in maniera istituzionale quest'area. Il Ministero dell'Ambiente sta progettando di stabilire un'area protetta naturalistica e il Ministero delle Antichità sta lavorando addirittura a rendere operativa l'inserimento di Karga nei siti protetti dall'UNESCO, i siti natura più cultura, quindi non solo siti archeologici ma siti in cui queste due componenti, che poi sono le componenti del nostro progetto, convivono e anzi danno valore l'una all'altra. Staremo quindi a vedere se diventerà un'area protetta UNESCO. Intanto a lei e al suo team buon lavoro e Corinna Rossi, buona serata. Buonasera a tutti, grazie. Arrivederci. Un po' di traffico qua ci sta bene. Ci sentiamo fra poco. La prima guerra mondiale ha avuto la sua meglio gioventù. Erano i ragazzi nati nel 1899, ultima leva ad essere chiamata alle armi. E quest'anno diventano maggiorenni altri ragazzi del 99, nati 100 anni dopo, nel 1999. Diventano grandi non in guerra, ma partono anche loro per studiare all'estero, per conoscere il mondo grazie ai viaggi low cost, per fare volontariato per una gara sportiva. Radio 24 ve li racconta, ragazzi del 99, incontrandoli e facendoli parlare. Di cosa fanno, cosa vorrebbero cambiare, come disegnano il loro futuro. Ritratti di ragazzi straordinariamente normali. I ragazzi del 99 di Maria Piera Ceci. Il sabato alle 14.30 e la domenica alle 9.30 su Radio 24. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Un ascoltatore, Roberto, no Simona? Sì, Roberto. Ci ha inviato una domanda pazzesca e interessantissima, però. Leggila. Se in bicicletta, per percorrere un tragitto, spendo X calorie, ovvero ho bisogno di produrre YCV, cioè cavalli vapore, quale quota di X o Y contrasta la gravità e quale l'attrito dell'aria? Non riusciamo, quando l'abbiamo ricevuto, non siamo riusciti a capire esattamente se a una domanda di questo genere si può dare una risposta, ma abbiamo trovato uno che ha accettato la sfida. Eh sì, ha accettato la sfida Michele Marenco, buonasera. Buonasera, buonasera a voi e agli ascoltatori. Michele Marenco, insegnante di fisica, di matematica e fisica alle scuole superiori, è un ciclista amatoriale, una passione di cui ha scritto, raccontando appunto la scienza, la fisica, le curiosità scientifiche che ci sono dietro, in un paio di libri, Ciclismo a test e La fisica della domenica, pubblicati da Sirone Editore. Quindi se non c'è lui in grado, se non abbiamo costui per rispondere, non sapremmo chi trovare di meglio. Michele Marenco, giriamo a lei la domanda, via con la risposta. Beh, sì, allora, le calorie consumate dipendono dal tempo per cui si protrae l'uscita, l'escursione. Ha più senso parlare di potenza, che è il valore istantaneo che una persona deve sviluppare. Se si va in pianura, questa potenza deve essere erogata solo per vincere l'attrito contro il terreno e l'attrito viscoso dell'aria per procedere, ma nessuna parte di potenza è consumata contro la gravità, proprio perché si è in piano e la gravità è bilanciata dal piano. Il discorso dell'impegno contro la gravità nasce solo e esclusivamente in salita e lì diventa veramente preponderante. Se volete possiamo dare alcuni numeri. Proviamo, vediamo. Allora, ad esempio, per una persona di corporatura media, su un'ottantina di chili, per iniziare a pedalare e mantenere una velocità da passeggiata turistica sotto i 15 km all'ora, servono circa 30 watt. E questi 30 watt sono divisi in parti uguali, una quindicina per vincere l'attrito interno dei muscoli e l'attrito contro il terreno, l'attrito volvente tra il pneumatico e la strada, e l'altra quindicina serve invece a progredire, quindi a vincere la resistenza dell'aria. Lei ha detto una cosa singolare, l'attrito contro i muscoli. Sì, perché in realtà una parte di energia viene consumata proprio all'interno e se ne va in calore, poi in sudore, in un'ultima analisi, per cercare di migliorare il più possibile il gesto, il movimento, perché non sembra, ma tutte le fibre muscolari scorrono le une sulle altre, producono molto attrito e quindi una parte iniziale di energia è consumata proprio per questo. Che ciò che differenzia un professionista, un ciclista professionista da un semplice amatore è che il primo ha talmente sviluppato il gesto atletico, l'ha reso così fine da rendere minimo questo attrito interno dei suoi muscoli. Chiaro. Perché ovviamente quando parliamo della bicicletta sono i nostri muscoli che, spingendo sui pedali, mettono in movimento il mezzo, la bicicletta, che ci fa muovere, tra l'altro in maniera efficiente, appunto, proprio dal punto di vista energetico. Naturalmente, tornando alla domanda di Roberto, del nostro ascoltatore, per iniziare bisogna vincere l'attrito del terreno e la resistenza dell'aria. Ma Michele Marenco, tornando all'esempio che ci faceva prima, cioè parlando della stazza di una persona, ecco, la stazza del ciclista, di colui o di colei che pedala, in qualche modo, in che modo influenza la prestazione, se siamo appunto in collina, in piano? Allora, in pianura sono sicuramente avvantaggiate le persone di stazza maggiore, anche se questo è controintuitivo, perché per offrire meno resistenza all'aria bisognerebbe minimizzare il più possibile l'area trasversale alla direzione verso la quale si procede, quindi assumere una posizione il più aerodinamica possibile. Più una persona è grossa, più difficilmente riesce a fare questo, ma una persona di corporatura maggiore è anche più potente rispetto a una di piccola stazza, per semplicemente perché ha gli arti più lunghi e anche più massa muscolare, quindi riesce a sviluppare più potenza. E quello che conta in realtà è il rapporto tra la potenza e l'aria che si oppone al movimento, e quindi le percentuali possono variare anche significativamente, fino ad arrivare a un 20% a favore delle persone che sono longilinee rispetto alle persone. Questo in pianura. Questo in pianura. Cerchiamo però di intenderci, cioè stiamo sempre parlando di persone che hanno, insomma, un fisico dignitosamente prestante. Non è che lei ci sta dicendo che, insomma, una persona sui 110 kg funziona. È una differenza tra un 55-60 kg. Esatto, 90, ecco, però 80-90 tra una persona ben messa e una persona mingarlina. Sì. Ma comunque, per finire il discorso sulla pianura, poi la maggior parte di costo energetico, quindi di watt consumati, devono vincere appunto la resistenza dell'aria all'aumentare della velocità. Finché si procede piano, appunto, basta una quindicina di watt, ma se si inizia ad andare a 30 oppure addirittura 40 all'ora, allora la potenza da mettere in campo aumenta in maniera veramente significativa, fino a raggiungere il massimo possibile che un amatore riesce a sviluppare. Che è intorno? È un amatore ben allenato, arriva a stento ai 300 watt. Diciamo che valori alla portata di tutti sono quelli intorno ai 250 watt, che sono tutti quelli che servono per arrivare a 35 kg. 40 km all'ora circa. È un'impennata forte, perché parliamo di 40 in media, 40 watt, e poi improvvisamente, se si vuole andare di più, si passa a 200-250, cioè un bel cambio. Perché l'andamento è col quadrato della velocità, quindi aumentando la velocità lo sforzo invece aumenta col suo quadrato, quindi aumenta in maniera molto più rapida. Questo è il motivo. Michele Marenco, velocemente, abbiamo tempo ancora per un'altra curiosità, per un'altra domanda. C'è differenza in termini di fatica tra il pedalare d'inverno rispetto all'estate, sulla costa, quindi in pianura, rispetto a una collina, all'altura? Beh, sì, perché cambia significativamente cambiano le caratteristiche dell'aria. Quindi se uno non riesce a essere più aerodinamico di suo, l'unica speranza che ha per andare più veloce facendo meno fatica è di muoversi in un fluido, in un'aria che sia meno densa. E l'aria è meno densa man mano che si sale con l'altitudine, e anche se aumenta la temperatura. Se la temperatura aumenta di 3 gradi, la resistenza diminuisce già dell'1%. Quindi sicuramente è più facile pedalare in altura d'estate che non in pieno inverno, con temperature rigide a livello del mare. E infatti, con non poche polemiche, ma a un certo momento il record dell'ora i ciclisti, quelli certo. ultra professionisti, andavano a farlo a Città del certo, Messico a 2000 metri. E grazie naturalmente a Michele Marenco. Buona serata e buona pedalata a tutti e tutti, direi, perché muoversi in bicicletta fa bene a noi e fa bene anche all'ambiente. La fisica della domenica. In questo libro pubblicato da Sironi, lei definisce la bicicletta nella sua semplicità un'invenzione straordinaria. A proposito di invenzione, e così chiudiamo, quando è nata la bicicletta? Beh, possiamo quest'anno celebrare il 200° anniversario, perché il primo prototipo della bicicletta moderna fu brevettato giusto nel 1817 dal barone Dreyfus, che questa si chiama Draisina, che perfezionò una invenzione precedente costituita da un asse con due ruote. Lui aggiunse a questo asse con due ruote una bella sella imbottita, quindi rendendola più confortevole, e per la prima volta lo sterzo. Lo sterzo. Ma non c'era anche un disegnino di Leonardo, che però, se non ricordo male, andavano con i piedi, cioè con i piedi picchiavano per terra. C'è un famoso disegno su uno dei codici, se non sbaglio il codice atlantico di Leonardo, ma una perizia recente di una decina di anni fa ha dimostrato che si tratta di un falso, che è stato un... Interessantissimo questo. Hanno messo l'originale. Sì, bisogna stare attenti, no? Perché a Leonardo. È una leggenda questa. Tra le mille invenzioni a cui che si fanno risalire a Leonardo, purtroppo la bicicletta non c'è. Non c'è. Allora, che dire, Federico? Speriamo di aver soddisfatto la curiosità di Roberto, che tra l'altro salutiamo. Eh sì, grazie Roberto. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS. Se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee. Se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestie in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e i più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Ogni giorno vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano, da lunedì al venerdì alle 16 e tutte le domeniche alle 19.10, qui su Radio 24. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Federico, ti sembra un'idea azzardata quella di andare in letargo, parlo di noi umani, per stare meglio e per affrontare meglio eventuali malattie? A me sembrava una follia, poi ho parlato con il nostro ospite che adesso presenteremo, e invece pare che sia una buona soluzione andare in letargo, come fanno gli orsi, ma come fanno un sacco di altri animali. E poi, insomma, come dire, più si riesce a difendere l'ozio e meglio è, no? Sei un pigrone. Assolutamente. Diamo il benvenuto a Matteo Cerri, ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell'Università di Bologna. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera Cerri. Allora, intanto diciamo che l'1, 2, 3 settembre c'è il Festival della Mente a Sarzana, e come questo tipo di appuntamenti sempre hanno, ha dentro veramente tante cose, quindi la cosa migliore è digitare in un motore Festival della Mente 2017. Però possiamo anticipare che Matteo Cerri sarà ospite il 2 settembre per un incontro dedicato proprio alla mente fredda, o perlomeno questo è il titolo: a mente fredda, l'ibernazione e la sua esotica fisiologia di rete. E siccome si fa sempre un gran confusione, o perlomeno si mettono insieme ibernazione, congelamento, e dentro questa grande cornice che è, insomma, io trovo un modo per assentarmi abbastanza robustamente dal mondo in attesa che arrivino cose che possono risolvere i miei problemi, compreso quello dell'invecchiamento, perché molti si fanno congelare perché dicono: quando poi ritorno mi faccio congelare a 80 anni, hanno trovato il modo di riportarmi a 30. Allora credo che lei voglia subito farci una distinzione importante Esatto, sono ibernazione e crioconservazione sono due cose molto diverse. E per qualche motivo nella lingua italiana le due cose sono giunte a significare quasi la stessa cosa, mentre ibernazione tecnicamente è quello che popolarmente conosciamo come letargo, quindi è quello stato, quella procedura che alcuni animali, alcuni mammiferi sono in grado di compiere durante l'inverno o durante comunque un periodo di scarsità di risorse, e in cui entrano in una sorta di stasi. Loro sono sempre vivi ovviamente e consumano il meno possibile, come una televisione che va in stand-by, ecco, possiamo dire così, un computer che va in stand-by, per poi riaccendersi quando è necessario. Invece la crioconservazione è una procedura completamente diversa, nella quale ci si propone di congelare e di mettere in una temperatura bassissima, meno 200 gradi, un organismo vivente, con la speranza, e sottolineo la speranza perché in questo momento non esiste nessuna possibilità di farlo, di resuscitarlo in un momento del tempo molto anteriore a noi, quindi tra 200, 300 anni o 1000. E è una tecnica che ovviamente per certi aspetti viene usata correntemente, per esempio gli embrioni vengono crioconservati e senza particolari problemi, però su una dimensione grande come quella che potrebbe essere di un uomo, insomma, ci sono numerosi problemi tecnici da risolvere. Certo che chi lo fa, però, ovviamente lo fa nella speranza che un giorno una tecnologia che al momento non si può neanche immaginare venga sviluppata e quindi possa essere in qualche modo richiamato alla vita. Però il crioconservato deve fare un grandissimo atto di fede nella scienza, perché tende a confonderlo con l'ibernazione e quindi con l'entrare in letargo. In realtà la crioconservazione passa attraverso un decesso chiaro, sì, e preciso, sì, no? Assolutamente, addirittura per essere legalmente fatta, infatti va operata su una persona già dichiarata morta, perché sennò sarebbe veramente un omicidio, poiché nessun essere vivente può sopravvivere a una procedura di crioconservazione. E invece, tornando all'ibernazione, che cosa innesca e che cosa controlla, che cosa regola questa sorta di stasi, di stand-by, quindi questo abbassamento progressivo della temperatura corporea? Ecco, questo è un domandone, un mistero, è quello su cui stiamo lavorando. Ci sono state diverse ipotesi nel passato, in un passato molto recente, a dire la verità. E quello che fa l'animale che va in letargo, la prima cosa che fa è ridurre tantissimo il suo consumo energetico, come una macchina che improvvisamente si mettesse a usare veramente un filo di benzina, e di conseguenza quindi si raffredda perché l'energia che consuma non è più sufficiente a mantenere questo organismo caldo, e in più il raffreddamento di per sé aiuta a consumare ancora di meno. E cosa lo fa? Qualche anno fa si pensava che ci fosse una sorta di ormone dell'ibernazione, di ormone del letargo, che andasse in giro nel circolo sanguigno e dicesse a tutte le cellule di lavorare di meno, fondamentalmente, come una fabbrica in cui improvvisamente si annunciasse a tutti gli operai di fare una pausa e quindi nessuno lavorasse più. Invece questa ipotesi è poi stata testata e insomma ci sono alcune crepe, alcuni dati che non convincono, e più recentemente ne hanno proposta una nella quale in realtà è il cervello che comanda o dice agli organi che consumano di più di smettere di fare questo lavoro, e quindi non è più un ormone che circola ma è una decisione che prende il sistema nervoso centrale, che però sa, lo diciamo tra virgolette, che scendendo a livelli bassissimi però le cose possono andare avanti. Certo, e lo sa, o perlomeno l'evoluzione che l'ha insegnato in ovviamente qualche modo. La cosa che a me sorprende sempre è che il cervello stesso che comanda questo l'innesco di questo stato cambia drasticamente durante questo stato stesso, per cui noi sappiamo che un cervello che non rimane in letargo, per esempio, presenta dei neuroni che smettono di parlare uno con gli altri, fisicamente si staccano, cioè ci sono meno sinapsi proprio che sono i punti di contatto fra neuroni, e questo stesso cervello inizia a esprimere alcune particolari proteine che per noi normalmente sono sinonimo di malattia, sono le proteine del morbo di Alzheimer. La cosa miracolosa che ci interessa per altri aspetti è che questo cervello poi ritorna normale molto rapidamente quando l'animale si sveglia. E quindi ovviamente questo genera un certo interesse dal punto di vista della ricerca medica, perché ci piacerebbe capire come questo cervello torna normale. Però è chiaro che dà un comando che cambia l'organo stesso. Ecco, Matteo Cerri ci diceva prima appunto che le ricerche sono in corso per capire i segreti dell'ibernazione. Però ha senso parlare a livello futuribile di ibernazione terapeutica? Sì, sì, assolutamente senso. Sarebbe un'evoluzione di una terapia che già si applica oggi, che si chiama ipotermia terapeutica. Quando un paziente sfortunatamente dovesse avere un arresto cardiaco, per esempio, o anche un ictus, spesso oggi in ospedale si ricorre a questa ipotermia terapeutica, che altro non è che un raffreddamento dell'organismo dall'esterno. Quindi il corpo viene attivamente raffreddato, per esempio iniettando dei fluidi freddi o anche mettendolo proprio a contatto con aria fredda. E questo perché, poiché l'abbassamento della temperatura fa risparmiare energia, noi ci troviamo in un paziente che ha un organo molto nobile come il cervello che ha fame, perché il cuore non riesce a pompare sangue oppure un'arteria si è ostruita, quindi le cellule del cervello stanno soffrendo perché non hanno abbastanza da mangiare, così possiamo dire. Allora, abbassando la temperatura, si riduce la quantità di cibo di cui queste cellule hanno bisogno. Ti mette un fattore protettivo. Esatto. Quindi soffre meno per la carenza di ossigeno. Esattamente, solo che oggi, poiché dobbiamo raffreddare dall'esterno, si può fare un raffreddamento molto modesto, di un paio di gradi, ci si ferma di solito a 34. E questo perché l'organismo, il nostro organismo non vuole essere raffreddato. Se vi è capitato mai di uscire poco vestiti in un giorno d'inverno molto rigido, il nostro corpo mette in moto delle reazioni per tenere la temperatura corporea costante, quindi il brivido, si trema, il pallore, il sangue resta all'interno del corpo, e queste reazioni possono addirittura essere controproducenti rispetto al vantaggio del raffreddamento. Gli animali che vanno in letargo invece questo tipo di reazioni non ce l'hanno, loro attivamente scelgono di raffreddarsi, diciamo così. Quindi capire come fanno e perché questo meccanismo riesce, gli consente di sopravvivere a temperature così basse, lo scoiattolo artico arriva a meno un grado per esempio, per la scienza medica sarebbe molto importante. Molto importante. Tra l'altro è anche molto interessante, lo sarà, capire perché certi corpi non vanno in letargo e altri invece ci vanno. Perché... Sì, su questo abbiamo qualche informazione in più, perché dal punto di vista evolutivo oggi siamo quasi tutti concordi nel ritenere il primo mammifero, che in gergo si chiama protomammifero, un ibernante, cioè un animale che fosse in grado di andare in letargo. Voi immaginate che il protomammifero compare sulla Terra tra i 150 milioni e i 200 milioni di anni fa, quando ci sono ancora i dinosauri, per intenderci. E quindi si trova a dover vivere in un mondo probabilmente particolarmente ostile, non dovrebbe essere facile girovagare intorno ai dinosauri. E quindi cosa fa? Sfrutta questa sua nuova capacità, che è quella dei mammiferi, di mantenere la temperatura corporea più alta e costante. Quindi in generale esce di notte, si procura il cibo di notte perché di notte lui è attivo come di giorno, non dipendendo dalla sua temperatura corporea dal sole, mentre i rettili sono un po' meno attivi, diciamo così. Poi pian piano ovviamente lui conduce questa sua vita sull'orlo sempre della crisi energetica, come i mammiferi hanno passato, secondo me, proprio veramente un periodo sulla lama di un rasoio. Quando poi i dinosauri si estinguono, ecco che gli animali iniziano a perdere la capacità di andare nel letargo perché non serve più, perché conviene essere sempre più attivi e fare più figli e riprodursi. Dal punto di vista evolutivo questo è un vantaggio. Ma se guardiamo tutti gli animali, tutti i mammiferi, e vediamo quali sono quelli che vanno in letargo, vediamo che sono distribuiti in tutte le famiglie. Ci sono chiropteri, carnivori, primati. Ogni famiglia di mammiferi ha delle specie che vanno in letargo. Questo dal punto di vista genetico suggerisce che il set di geni, il gruppo di geni che serve per sopravvivere al letargo sia in realtà comune a tutti i mammiferi, inclusi noi. Quello che è cambiato è la capacità di innescare questo processo. Ecco, ma tornando a noi mammiferi sapiens, sì. Riuscire ad innescare questo processo potrebbe, e tornando sempre all'idea di ibernazione terapeutica, riuscire a poter innescare e regolare questo processo potrebbe tornare utile anche nel trattamento terapeutico, per esempio, dei tumori, cioè potrebbe rallentare la proliferazione delle cellule che impazziscono, delle cellule tumorali? Sì, negli anni 60 e 70 sono stati fatti alcuni esperimenti su questo aspetto, perché si è osservato che in effetti cellule tumorali smettono di crescere quando l'animale va in ibernazione letargo, quindi in questa condizione il tumore non muore ovviamente, resta lì e quando l'animale si sveglia ritorna attivo, però in questa fase non cresce. E noi su questo abbiamo iniziato adesso in fase puramente progettuale, per cui non abbiamo iniziato a lavorarci, però vorremmo esplorare l'ipotesi di verificare se un trattamento chemioterapico condotto durante uno stato di letargo artificiale non possa essere più vantaggioso. Questo perché? Perché per alcuni tumori uno dei problemi più importanti è la nascita di alcuni cloni, si chiamano, cioè di alcune cellule, che sono resistenti al farmaco che viene usato, e in alcuni tumori ci sono molto pochi farmaci che si possono usare, quindi vanno dosati con molta cautela. Se un paziente ha un tumore che diventa resistente alle uniche terapie disponibili, poi non c'è più terapia. E questi cloni diventano resistenti proprio perché il tumore prolifera e le cellule si replicano. Se queste cellule non replicassero, però, cosa che succede durante il letargo, in linea teorica, lo sottolineo perché non bisogna mai dare speranze che non siano consolidate da dati, in linea teorica si potrebbe trovare un trattamento anche più aggressivo senza il rischio, o perlomeno con minor rischio, di far sviluppare cloni farmacoresistenti. Non vogliamo dare speranze, però insomma ci piace anche esplorare nuovi scenari, certo, insomma, futuri della ricerca scientifica. Sì, è una possibilità che è razionalmente ragionevole. E poi ovviamente purtroppo la biologia e le scienze della vita sono a volte imprevedibili, quindi è quello che può sembrare assolutamente logico non funziona. Per questo quando poi si parla di malattie che hanno così un aspetto culturale ed emotivo piuttosto intenso sulle persone bisogna essere molto cauti. Però la possibilità è ragionevole. Chiudiamo con una domanda inevitabile, magari voglio anche ricordare che c'è tutta un'area molto interessante nella quale lei è direttamente coinvolto, che sono i viaggi spaziali, dove naturalmente la possibilità di ibernarsi su distanze che occuperebbero tempi di percorrenza di un anno e mezzo diventa fondamentale. Però c'è il problema del risveglio, lei ci ha fatto anche nascere questa domanda, cioè quando gli orsi si svegliano come sono, intontiti per 2 settimane oppure riprendono facilmente? Quindi pensando a noi che non siamo orsi, uscire dal letargo potrebbe essere una roba gestibile oppure siamo mollaccioni per un mese? Guardi, se è difficile capire come gli animali entrano in letargo, capire come si svegliano per adesso è ancora più oscuro ed è fra l'altro la fase più delicata e più pericolosa dell'intero processo, quella in cui l'organismo è chiamato a uno sforzo maggiore. Gli animali in generale si svegliano bene dal letargo, anzi si può dire che fanno una cosa paradossale, perché si svegliano per dormire. Cosa vuol dire si svegliano per dormire? Vuol dire che durante il letargo l'attività del cervello è molto diversa da quella del sonno ed è molto sbagliato pensare al letargo come a un grande sonno fondamentalmente. Anzi, il cervello sembra quasi sveglio come dinamica di attività dei neuroni, solo che è molto lento, come se fosse un film che piano piano rallenta la successione dei fotogrammi e quindi uno piano piano ha una dilatazione del tempo in questo senso. Quando si svegliano gli animali principalmente dormono, qualcuno sostiene proprio perché durante il letargo non si può dormire per qualche motivo che non conosciamo e quindi bisogna recuperare questo sonno. In questo sonno poi probabilmente il cervello ritorna anche normale, quello pseudo Alzheimer di cui avevamo parlato ritorna normale in questo periodo. Passato queste ore di sonno, l'animale è di solito perfettamente attivo. Difficile dire quale sia stato un animale che si è svegliato da un letargo rispetto a uno che si è svegliato una settimana prima. Diciamo. Per cui in questo senso il risveglio ci tiene pronti. È comunque una fase molto delicata perché l'organismo consuma molta energia e questa energia deve essere direzionata e dedicata agli organi che più di tutti ne hanno bisogno, come appunto il cervello. Matteo Cerri, io direi ne riparliamo a mente fredda. Questo è il titolo dell'appuntamento che la vede protagonista, il Festival della Mente, il 2 settembre. Buonasera, grazie per essere stato con noi a Mebius. Grazie a voi, è stato un piacere. Arrivederci. Quelli del traffico premono, vogliono dirci qualcosa, ascoltiamoli. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Possono rievocare emozioni o situazioni del passato, provocare disgusto o perfino salvarci la vita. Per esempio, ci fanno capire se un alimento sia andato a male o avvertirci di un pericolo come un incendio. Stiamo parlando degli odori. Eppure l'olfatto è, a quanto pare, ancora il più enigmatico dei nostri sensi. A che punto è allora la ricerca scientifica? Ne abbiamo parlato con Linda Buck, neurobiologa statunitense, premio Nobel nel 2004 proprio per la scoperta dei recettori, cioè quelle proteine che ci fanno rilevare le molecole odorose, insomma per i suoi studi sul funzionamento del sistema olfattivo. E l'abbiamo incontrata a Trieste in occasione di un convegno internazionale organizzato dal Centro di Fisica Teorica Abu Salam e dalla SISSA. Linda Buck, cosa sappiamo oggi sulla percezione degli odori? Cioè come riusciamo a percepire più di 10.000 odori? In realtà gli esseri umani sono in grado di riconoscere e distinguere più di 10.000 odori, addirittura si parla di milioni di odori diversi. E le altre ricerche vengono condotte anche su vari animali, dagli insetti ai roditori. A proposito di animali, ecco, noi non siamo quelli messi proprio meglio, ci sono animali che hanno un olfatto potentissimo, più potente del nostro. Ma in realtà gli esseri umani non sono così male come abbiamo sempre pensato. Certo, noi non veniamo utilizzati come i cani per seguire le tracce odorose, per scoprire persone che si sono nascoste, che sono scappate o che sono scomparse. Però in realtà sia il fatto che siamo in grado appunto probabilmente di distinguere più di milioni di odori ci fa capire che non siamo poi così male. Lei studia anche come l'olfatto influenzi le emozioni e il comportamento, ma come fa un odore a far scattare l'allarme in caso di pericolo? Insomma, parliamo di odore della paura, mi riferisco a uno studio pubblicato dal suo team su Nature in cui avete visto che i topi reagiscono praticamente in maniera istintiva all'odore di un felino, all'odore dell'urina di un felino che è il loro predatore. Well, we're very interested in not only how we perceive odors or molecules as having different odors, but also how the olfactory system, at least in animals. Noi studiamo non solo come viene percepito l'odore, ma anche effettivamente come l'odore può avere un'influenza sulle nostre emozioni. In particolare abbiamo studiato come l'odore di un predatore fa appunto paura a, per esempio ad alcuni topi, e siamo andati a studiare, abbiamo visto proprio che in questo caso c'è l'aumento di un ormone dello stress. Ora, questo potrebbe essere esteso in futuro anche negli esseri umani. Al momento non siamo a conoscenza di nessuna molecola, di nessun odore che appunto aumenti l'ormone dello stress negli esseri umani, però il sistema, diciamo, il sistema fisiologico è abbastanza simile. Nel futuro potremmo anche trovare qualcosa di simile. E a proposito di noi umani, un odore può farci innamorare? Of course, this is a very popular topic. Are there pheromones? Beh, questa sì è la domanda ovvia, se ci sono i feromoni negli esseri umani. Anche qui a questo congresso si sta discutendo questo argomento, ma al momento non c'è nessuna evidenza che esistano feromoni negli esseri umani. Senta, e perché capita frequentemente di non riuscire ad apprezzare o a volte proprio addirittura di essere infastiditi, di provare disgusto per alcuni odori che non ci sono familiari? È una questione di biologia o di cultura? That's an interesting question, and it's not known whether for sure whether there are smells that are attractive or aversive to everyone around the world. Nel caso degli esseri umani non è chiaro se ci siano degli odori che sono disgustosi per tutti. tutti. Sicuramente c'è una differenza culturale, perché abbiamo molti esempi di odori che sono disgustosi per alcuni e piacevoli per altri. Nel caso degli animali, sicuramente abbiamo identificato alcune sostanze che provocano disgusto istintivamente negli animali, quindi è possibile che ne esistano anche qualcuna negli esseri umani. E anche questa è una domanda che non posso non farle. Marcel Proust con la sua Madeleine aveva ragione, cioè un odore può farci riaffiorare dei ricordi anche di un lontano passato. I think we've all had this experience of smelling something. Sì, l'olfatto è molto diverso dagli altri sensi e ci può proprio evocare non solo, diciamo, per esempio sentiamo l'odore di una rosa che avevamo sentito nella nostra infanzia, non ci ricordiamo solo della rosa, ma ci ricordiamo di tutto quello che ci circondava allora, dell'ambiente, dell'emozione che questo ci ha procurato. Senta, ma perché è ancora il più enigmatico dei cinque sensi? It has the sense of smell has not been studied as extensively as vision or hearing. La vista e l'udito sono stati studiati per tantissimi anni, mentre l'olfatto è stato un po' trascurato. E quindi conosciamo molto di più riguardante appunto la vista, l'udito e gli altri sensi, meno riguardo l'olfatto. Però anche conosciamo poco riguardo il gusto. Questo è un altro dei sensi che è ancora abbastanza enigmatico. E comunque qui a questo congresso stiamo appunto sentendo parecchie presentazioni che utilizzano nuove tecnologie e che quindi ci portano a comprendere sempre di più i misteri dell'olfatto. Quali le prossime sfide della sua ricerca scientifica? Well, right now there are a couple of things that we're really interested in, and one is how smell affects appetite. Sì, adesso siamo molto interessati a capire come alcuni odori influenzano l'appetito. E quindi già abbiamo delle indicazioni di come alcune molecole possono influenzare l'interesse a mangiare o meno. E questi studi speriamo che ci portino anche a trovare delle sostanze che possano aiutare per diminuire l'appetito nel caso delle persone che soffrono di obesità. Un'ultima domanda. Lei è una delle poche donne ad aver vinto il Nobel. 48 le donne, 833 gli uomini. Cosa ne pensa delle carriere femminili nel mondo della scienza? Well, I think that women have traditionally not been so interested in going into science, maybe because they were discouraged, but I think that we need women. We need more women in science, and I would encourage young girls to think about how important they are. Penso che solitamente le donne sono state scoraggiate dal perseguire studi scientifici o una carriera scientifica, e vorrei quindi incoraggiare tutte le giovani ragazze che sono interessate alle materie scientifiche a studiarle e a dare un contributo, questo sia nel campo della biologia, della matematica, dell'ingegneria, dell'informatica e qualunque campo che possa essere di loro interesse. Insomma, le donne non sono troppo belle per il Nobel. Grazie, Linda Bach. Thank you. Certo, Simone, che siamo riusciti a mettere insieme l'impero romano, la bicicletta, l'olfatto e l'ibernazione. Veramente un menù ricco. E quindi buona settimana a tutti. E a tutte.